Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. C'è chi fa parte del problema, chi della soluzione, chi fa parte del paesaggio. I ain't got a first name, sing for whatever. Always in a heartbeat, a friend of mine. New York, New York, in a hot, hot summer. Leaving the place low all of the time. I just got my heart broke home in the winter. Oh no, he said, pull life in the cry. Don't ever tell them that you're broke record. They won't understand, even know what it's crime, yeah. But it's hard for Americans to really understand. La vicenda Macron invece ci consolida nella volontà di andare verso una ricostruzione dell'Europa. Ma questa idea che non è un intellettuale, è raffinato, che non è un banchiere, io ve la smonto domani su Libero, sì. Perché abbiamo trovato il Macro Leaks, e dove lui ha ricevuto milioni e milioni, bravo, di euro da banche, da Rothschild, eccetera, per questa campagna elettorale. È esponente di quell'ala massonica francese, generale da Jacques Attali. Insomma, ieri con la piramide, insomma, l'iconografia era scelta in maniera precisa. Non è neanche misteriosa la cosa. Macron tiene convegni al grande Oriente di Francia, esplicitamente, non è che è una cosa nascosta. Questo qui farà un tale casino stile Renzi, tanto da far rimpiangere Marine Le Pen, che è destinata comunque un giorno probabilmente a vincere, nel bene o nel male. What's new? I fall from my old high street. Bass can get you through. I'm broader than Broadway. Broader than Broadway in my own feet. Who am I kidding, man? I love to hear. Love to sell away. Allora, signori, tutti conoscono Macron. Massone. La vittoria di Macron in Francia. Dio lo benedica. De Luca, anche De Luca. Dio lo benedica. Signori, tutti conoscono Macron, massone, banchiere, chi più ne ha più ne metta, distruggerà con l'asse franco-tedesco l'Italia. La verità è che è un po' un mistero, è un po' un mistero Macron, effettivamente. Fanno ridere effettivamente poi tutti i macronini italiani, quelli noi siamo come Macron. Uno che ha detto i partiti sono morti, il centrodestra è morto, il centrosinistra è morto e si è fatto un suo movimento. Ma chi è che lo fa in Italia? Ma chi lo fa in Italia? Ma dai, su. Sì, l'hanno fatto il Movimento 5 Stelle, però non sono certo... macroniani nelle idee. Dai, su. Ma chi si fa un movimento da solo dicendo i socialisti sono morti? E infatti hanno preso, non lo so, lo 0.n%. La destra è morta! E infatti sono... E ha sfidato la Le Pen e ha vinto. Un po' misteriosamente adesso, nel senso che si deve capire che cosa farà. Massone, il massone Macron. Oggi sul Fatto Quotidiano c'è tutto un pezzo sulla piramide del Louvre, le 666 lastre per creare la piramide del Louvre, che poi sono 673, però fa più comodo dire 666. Oh, Dan Brown è una figata per tutti, Dan Brown, grande. Signori, il bello è che però la politica, ho detto questo, è che la politica è trasparente, cioè in politica non riescono a millantare, no? Sono proprio, come dire, i personaggi politici si muovono in maniera, basta leggerli un po' in controluce, leggere i due o tre articoli giusti sui giornali, e li si intuisce subito, li si smaschera subito. Tipo Renzi, cosa vuol fare adesso? Chiaramente vuol far cadere il prima possibile Gentiloni. Poi vi racconteranno, non è vero, il 2018, questo è l'obiettivo: abbattere Gentiloni il prima possibile, se possibile a ottobre, prima di fare la legge di stabilità. Questo è chiaro. E allora che fa? Chi è che incontra Obama ieri? Renzi. Chi è che davanti a Obama dice ti chiamo Macron, e ha chiamato Macron Barack, ti passo Emmanuel Macron? Renzi. Cioè, giusto a capire chi è il premier, in questo momento. Giusto a capire chi è il premier. Signori, ci sono 14 gradi a Paratico, come ci fa sapere Roberto, mentre Aldo ci informa che ci sono 13 gradi a Udine. A Concesio, Brescia, 11 gradi, molto nuvoloso, così 11 gradi anche a Sanremo, mentre a Torino 10 gradi, mentre all'Atto Agata, evviva, che bella immagine! Un abbraccio. Una buona giornata da Saragozza, Spagna, 12 gradi, grazie Mauro. 2 gradi a Eindhoven, ci stanno ascoltando, Giulio Dalì da Eindhoven, Olanda. 2 gradi. 7,2 gradi, ci fa sapere da Basilea Sandro. Finalmente non piove più, dopo 3 giorni di vento e acqua a catinelle. Acqua a catinelle, vai a vivere a Basilea. Acqua a catinelle ti becchi. 14 gradi anche a Zorlesco, Lodi. Mentre Stefano ci dice 13 gradi a Modena. E signore, Maria, sì. Sono Anacleto, vedi, l'altra settimana ti avevo detto che la Veronica, a mie spese, sabato sera ritornavo da casa vostra, non c'era nessun problema. Mi sembra che tu sia un po' troppo con la puzza sotto il naso, Maria. Mi dispiace dirtelo, noi siamo buonaccioni, hai capito? Ti sentirò, ma non ti manderò più messaggi. Ciao. No, Anacleto, no, Veronica, vedi quando all'ultimo momento mi hai detto guarda, un impegno, non possiamo più andare. No, vedi. No, questa volta c'è Anacleto che cavolo di danni che... E Anacleto deve sapere che tu mi hai dato buca l'ultima mezz'ora prima di muoverci perché avevi un altro impegno. Dillo pubblicamente. No, no, è colpa tua, guarda, io... No, lo sei scorretto e disonesto, soltanto perché vuoi le simpatie di Anacleto, perché hai capito che è un avversario temibile. Sei scorretto. No, veramente, io sono un po' affranto. Anacleto, non so neanche come possiamo rimediare, credo... Anacleto, non è così, io sarei venuta, altro che puzza sotto il naso, devi saperlo, nonostante il nostro rapporto difficile, io sarei venuta, come vedi ho fatto campagna perché la sciocchina mi ci portasse. Ecco. Ma non c'è stato verso. È primo. Niente, abbiamo bucato la festa di Anacleto. Anacleto, voglio dare questa notizia anche non solo a Veronica Gentili, che già lo sa perché l'ha fatta bucare lei, a Carla Rocchi. Carla Rocchi, che saluto, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, buongiorno. Buongiorno. Come Alessandro, stai Carla? Tutto bene? Tutti. Tutto bene, oggi avremo una bellissima notizia riguardo agli animali di cui parla Repubblica, e, insomma, che non è la politica, non sono le notizie di politica, però io, ecco, sulle notizie di politica dobbiamo aprire il Parlamento. Niente, ecco. questa festa ragazzi, di Anacleto, ragazzi. Se prendo un caffè e gli state sempre così, io vi voglio bene. Vorrei darvi una notizia clamorosa. Signori, Carla Rocchi, hai lì un portatile da qualche... perché sei al telefono, non so, un telefonino, una roba... Certo, ecco, perfetto. È uno smartphone di quelli abbastanza moderni. No, io so tutte cose a manovella, però... vanno benissimo. Vabbè. Sì. Vedi? Tu Veronica no, perché sappiamo sei in taxi, sei in giro. Io purtroppo sono già... oggi faccio le veci di quando Federico Novella andava alla sbarra, ti ricordi? Ah, come ecco, no? Mi sento tanto così. Cioè, che stai facendo? Non stai andando in TV? Quante cose vuoi fare, sì. Stai andando in TV? Sì, ma orari antelucani. Ma dove vai? Ad Agorà? Ce lo chiediamo tutti, sì. Ah, ecco. Vabbè, ma non ti devi vergognare. No, sai, però volevo fare quella disinvolta che era davanti al caffè latte a casa, invece sto arrancando Sto arrancando. Allora, signore, e anche signori ascoltatori, dovete scaricare tutti un'app. L'app è molto semplice. Matteo Renzi. Dai. mai. No, no, no, scherzo, guarda, è vero, io l'ho letta quattro volte perché ne ha scritto Mattia Feltri in prima pagina. Lorenzo Nespoli l'ha già scaricata, ha già 10 punti fragola. È primo punti in classifica. Che? Punti fragola, cioè, sai un po' come i punti fragola. Allora, c'è un'app, Matteo Renzi. La scaricate dallo smartphone, la trovate così semplice. Matteo Renzi, c'è la faccia di Matteo che vi guarda e vi dice ciao. Oh mio Dio. È un'icona su cui clicchi per entrare nel mondo del leader. Appuntamenti, discorsi, interventi, tweet, post. Se diffondi su Facebook una delle sue notizie, guadagni 10 punti. Ma ragazzi, non è una barzelletta, vi giuro. Se la diffondi su WhatsApp, 5 punti. I primi 50 non si sa quando incontreranno Renzi. Vinceranno un incontro con il segretario Renzi. Vabbè, allora devo fare immediatamente la... Ti prego, adesso vorrei... Immediatamente prendo tutti i punti possibili. E lo incontri. Voglio una diretta del mio incontro con Renzi. Brava, devi fare così. Lo faccio. E poi vai lì e dici buongiorno. Non potrà rifiutarsi di incontrarmi, no? Nel momento in cui ho fatto i punti fragola, è fatta, scusami. Tu ritwitta tutte le sue notizie. Adesso vai in testa la classifica e poi... Anzi, Veronica Gentili e Carla Rocchi. Poi dopo, quando vinci questa classifica, vai da Renzi e gli dici che cosa? Io guarda, io sono veramente... È la politica 4.0, non sorridete. Ho capito che sono 4.0. Uno clicca, va da Renzi e gli dico, cioè questo fatto di rimandare in giro le notizie, le cose. Sì, insomma, diffondi le sue idee, vinci punti. Questa è una cosa che dà senso all'esistenza, francamente. Dipende, secondo me alla mia per incontrarlo forse sì. Vedi. Cioè, però giustamente secondo me, io costituisco un caso a parte, cioè un po' come l'incontro con Anacleto, sono speculari, capito? Esatto. Cioè, no, Mattia Feltri dice che ricorda un po' il miglior venditore folletto o il premio Stakhanov nell'Unione Sovietica. Vi ricordate il migliore estrattore di carbone nelle miniere? È bello, insomma. Beh, diciamo anche niente di nuovo sotto il sole, nel senso che lui prima vendeva gli elettrodomestici, ce li vendeva televisivamente mettendo le slide, e adesso ha deciso di fare, capito, one by one con l'app, però insomma Però è bellissima questa cosa, io vi vorrei veramente lì a twittare, ritwittare, ridiffondere. Ma non vogliamo indire una gara? Per scalare poi, esatto, e scalare la classifica. Chi riesce prima tra me e te? Non lo so, io perché no. Carla la vedo poco galvanizzata da questo progetto, quasi niente. Carla è stata gelata da questo progetto. No, più che altro sbavigliata da questa cosa, perché non lo so, è una roba postmoderna, che vi devo dire? Sì, un po' postmoderna. Con postmoderna secondo me lo nobility, Carla. Hai ragione, Carla. È un aggettivo già troppo alto. Prima mattina sono un attimo con riflessi... Un po' così. Giustamente. Comunque, insomma, è una nuova iniziativa che volevo suggerire. Ecco, questo modo ma per... del resto avrete ricevuto anche voi quando c'è in tutto questo periodo sul telefono messaggini e cose, fai così, fai così, vai a votare, ricordati di me, non mi dimenticare. L'avete ricevuto? Io fortunatamente no. Sono contento di essere stato tirato fuori da questa cosa. Allora io devo dire, ho avuto questo privilegio. Però devo dire una cosa, la cosa che invece mi ha colpito, se vogliamo parlare un po' seriamente, è questi macronisti che si sono scoperti in Italia. Hai visto, Carla, quanti macronisti, no? Tutti macron in... Beh, insomma, c'era una vignetta su uno di questi giornali di stamattina che dice che si sale sempre sulla Citroën del vincitore. Però vogliamo dirci una cosa, che io avevo bisogno che venissi a vedere proprio visivamente un'altra elezione di un presidente o di qualcosa dopo quella di Trump, cioè, come che sia, io non dovevi come dire rifarti gli occhi, ecco. Mi devo rifare gli occhi perché adesso non lo so cosa farà Macron, non lo so, non lo voglio neanche sapere, ma dopo tutto, dopo l'elezione di Trump, un'elezione ci voleva, quale che essa fosse, perché insomma, si è aggiunto qualcosa, ecco, c'è una cosa più recente da vedere, da avere negli occhi. Un qualcosa che ci riconciliasse con la politica. Io dopo le elezioni di Trump sono rimasta scossa un po'. Proprio visivamente, esteticamente, non è un giudizio politico. Sentiamo qua, quella che ha la puzza sotto il naso e parla pure francese, è la nostra Veronica Gentili, che ci dirà di Macron, che è un uomo... Che ti veux savoir, pour moi? No, non lo so, quello che vuoi. Tu parles français, oui, je sais ça. Ti dico che, allora, secondo me una delle cose che bisogna considerare è che qui c'era la battaglia tra europeisti, come si dice, e dall'altro lato la Le Pen. No, però la Le Pen, la differenza secondo me rispetto ad altri gruppi, come dire, populisti vengono chiamati, però in qualche modo non riconosciuti con l'establishment, aveva una connotazione molto chiara, per quanto lei si è sbracciata per togliersela di dosso, di estrema destra. Quindi comunque è stata una partita diversa rispetto ad altre che si sono viste in Europa o che potremmo vedere qui in Italia. Cioè, un conto è un partito, appunto, come dicevi prima, non di destra, non di sinistra, nel tuo editoriale iniziale, che mi ha fatto molto sorridere che Macron è riuscito a farti fare un vero e proprio lungo editoriale. È stato molto bello questo. Comunque, né di destra né di sinistra, quindi aveva lui una caratteristica di un certo tipo, mentre lei era molto connotata a destra. Di solito accade il contrario nelle altre partite, quindi il candidato dell'establishment è riconosciuto come destra o sinistra e il movimento cosiddetto populista, antipolitico, tende ad avere questa connotazione post-ideologica. È qui che è stato poi... Quindi in buona parte la Le Pen ha perso anche per quello, perché c'è stato il rincorrere immediatamente, andare subito a cercare di impedire che la tradizione fascista, riconosciuta come tale, potesse arrivare al potere. La sensazione che molti abbiano votato, questo almeno si legge dai giornali, accettando il meno peggio tra i due, anche qui, cioè, non per volere sminuire Macron, per carità, che la chiamano la diselezione invece dell'elezione, perché la gente è andata a votare per difetto, cioè perché non vincesse l'altro candidato hanno votato lui. È evidente che tutti quanti siamo contenti del fatto che abbia vinto, cioè, io non condivido moltissime cose di Macron, ma anch'io avrei votato Macron e sono contenta che sia andata così. Ma perché ti devi leggere tutti quanti? Guarda che ce l'hanno molti ascoltatori che avrebbero voluto la Le Pen, È probabile, io lo immagino, però in percentuale, se stiamo al popolo francese, abbiamo visto quello che è successo, quindi comunque la percentuale è molto più alta. Poi sono d'accordo, ci sarà un problema enorme, perché esiste un 35% di francesi che non si sente rappresentato da Macron, dall'Europa, da questo modo di intendere la politica, e che saranno seduti in Parlamento e bisognerà capire come verranno rappresentati, come verranno portate avanti le loro istanze. Ma questo adesso abbiamo già problemi col Parlamento italiano, adesso mo a fregarsene gli italiani di come verranno rappresentati nel Parlamento francese. La gente vuol sapere poi in maniera brutale, ma questo Macron è un massone oppure no? Ma questo Macron si alleerà con la Merkel per distruggere l'Italia e per dare l'Europa ai banchieri, sì o no? Ecco, vi voglio rassicurare, non abbiamo una risposta oggi qui da darvi a 24 mattina a queste domande molto molto profonde. Guardiamo sull'app. Abbiamo il traffico. Questo è il massimo che possiamo dare di risposta in questo momento. Il traffico. Milan, o traffico, what cosa, tentacola. Alle, tutti pronti a saltare sul carro di Macron. Comunque, con quel debito incredibile che abbiamo, possiamo provare anche il DIBA, peggio di così, cosa vuoi che capiti? E meno male che c'è il Milan! Alessandro però! Tutti insieme, gufiamo il triplete! C'è da difendere in queste ore particolari anche un patrimonio del nostro paese all'Italia, insomma ci sarebbero 15 giorni per trovare le manifestazioni di interesse per vendere all'Italia. Che intanto l'Alitalia si decida a cambiare le divise delle hostess, che sono una vergogna per l'Italia, con quella specie di panettoncino che hanno messo in testa come cappello. Da indignarmi quando vedo le nostre hostess vestite in quel modo. Oh, Vincenzo De Luca va sempre dritto al punto, al cuore del problema. Al cuore, capito Veronica, il tuo amico Vincenzo De Luca? Il panettoncino in testa. Guarda com'è felice quando lo sento. Ma dai, fa ridere, fa riderissimo, sai dire io, fa riderissimo. Queste interviste all'Ira TV andrebbero trasmesse così, proprio senza neanche... senza neanche un intercalare, così proprio tutte il verbo di De Luca, il verbo di De Luca. Allora, signori, siamo con Veronica Gentile e Carla Rocchi. Carla, hai visto, cioè, ma il fatto che Renzi si muova così, no? Io ho detto adesso vuole abbattere Gentiloni, adesso forse sono stato un po' brutale, adesso Gentiloni stia sereno, adesso non vorrei esagerare. Perché lo dici tu? No, però che ne dici, Carla? Che ne dici, Veronica? Carla, In questo la lettura è trasparente, non c'è proprio, forse sarà così, no, è assolutamente così. Ecco, io per esempio questa cosa di andare da Obama di corsa e questa telefonata ti passo, io ho delle cose che mi gelano, no? Delle cose che come posso dire, di comportamento. Lo so, in questo momento hai perso 3 punti fragole, te lo dico. Lo so, è pazienza. Hai perso 3 punti. Una ragione. No, ma non lo so, mi chiedo proprio, ma qual è l'autorappresentazione che si vuole dare? Qual è? Che cosa si vuole fare? Non è, tanto ci si arriverà, Gentiloni, voglio dire, lo sa lui stesso, non è mica un uomo sciocco, un uomo intelligente, conosce questa situazione, la vede, la legge, e quindi non so, tutte le cose esagerate, l'esagerazione certe volte fa proprio... E vabbè, ma è un po' la cifra anche di Renzi, no? Il dinamismo anche sfrenato a un certo punto, anche un po' esagerato, cioè il dinamismo, no? Per far vedere adesso il partito è fatto un po' a sua immagine e somiglianza, ha messo tanti bei giovanotti, ha rottamato un po' di gente. No, dei millennials, ha messo i millennials. Questo dico, ha messo 20 ragazzi, ha detto invece basta questi sindaci. Basta, sti vecchi. Mettiamo 20 millennials. Sì. Sì. Che possono entro i 30 anni, per cui purtroppo Chiara Ferragni non gli rientra più per 2 giorni, perché sennò fai la brava. Che Chiara Ferragni è impegnata ad altro adesso. Sta già facendo... Poteva entrarci anche lei, e secondo me poteva dargli 2 dritte, capito, di marketing. E a quel punto sarebbe stata fatta, perché lui sostanzialmente aveva bisogno in tutti i modi di darsi una svecchiata. Questo era il punto. Quindi l'ha fatto così, mettendo dentro questi personaggi che adesso capiremo chi saranno, facendo tutte cose di propaganda, ha fatto dei discorsi in cui ha fatto capire, poi tutto questo alternato invece ai 3 punti che sono medievali. Un'altra, quindi... eccola qua, un'altra rassegnata e soffrire politicamente i prossimi 5-6 anni, se non 15-20 anni, se non 15-20 anni. Veronica Gentili, un'altra mamma, questa è bellissima, vero? Lavoro, casa e mamma, capisci? Ti è piaciuto? Ora, per carità, tutte cose splendide, ma possono essere il programma del Partito Democratico, mamma, del Partito Progressista Italiano? Dai, mamma, bellissimo. Carla, non è rassicurante. Lavoro, casa e mamma. Io, guardate, non lo so, guardo e mi devo fare un'idea, però quello che mi faccio un'idea è che come se ogni mossa facesse segnarsi un punto di distacco invece che un punto di avvicinamento. È così lontani da quello che le persone percepiscono di sé, da come vivono, da come si muovono, da quello che fanno, dalle preoccupazioni che hanno. È come se ogni mossa fosse un punto di distacco. Io consiglierei, ammesso che qualcuno abbia senso, voglia ascoltare, di fare un momento di stop, stare fermi un momento. Fermi un momento è una cosa che fa una bene. Meditazione. Gli altri prendono un po' le misure, perché tutta questa scarica di cazzottoni mediatici, di comunicazione, non fa bene, allontana le persone. Però era terrorizzato a stare fermo un momento. Esatto, questo è un po' il problema. Pensava di perdere il suo turno definitivamente. Allora, prima di chiudere con lo straordinario nostra rubrica, vorrei dare questa notizia bella che troverete su Repubblica, la dico qui a Carla Rocchi e a tutti, e c'è una pagina di Repubblica su quanti sono gli animali nelle nostre famiglie, ma anche in confronto all'Europa, tipo sono, credo, allora in Italia pesci e canarini sono quelli che vanno di più, mentre il record di gatti sai dov'è, Carla? In Francia, vedi com'è preparata, e come fai a saperlo? Sei il presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, Lo so, io che lo devi sapere. E poi in realtà sì, pesci e canarini, solo perché uno può averne più di uno in un acquario, ma in realtà gli animali l'animale più diffuso nelle case di tutti in tutto il mondo è il gatto. Sai cosa è diffuso moltissimo? 6 milioni in Germania? Sai cosa ti tengono in Germania? Soprattutto il coniglio.